04 minuti primi, sei in diretta, credo, se tutto è andato bene. No, non c'è in diretta, ma adesso va bene, adesso c'è in diretta. Pronto, ci sei? Pronto. Allora, buonasera a tutti e tutte. Allora, dall'altra parte del filo, come dicevamo, come si diceva una volta, c'è Pat, ti avevo annunciato, lo ridiciamo, che sarà uno dei protagonisti, degli ospiti e dei di coloro, tra l'altro, che in più volte hanno voluto più episodi, più occasioni hanno voluto sostenere la radio al loro modo, cioè venendo qua in radio, venendo sotto la radio, suonando per la radio. Insomma, questa è una cosa che noi apprezziamo molto, forse anche di più di un semplice, appunto, poi una semplice sottoscrizione monetaria. Ci sembra proprio la cosa più bella che un artista, un cantante, un come ti definisci ultimamente, un storyteller, ma guarda, ultimamente non lo so più nemmeno, non lo so, io, ma perché da come avrei da come avrei sentito dall'ultimo disco, c'è un po', insomma, un miscuglio di artisti, quindi non so più bene nemmeno come definirmi adesso. Va bene, ma le definizioni appunto poi lasciano il tempo che trovano. Sì, l'importante, esatto, è fare la cosa che ti piace, insomma, no? Tutto, esatto, sommato, anche fra le mille difficoltà, immagino. Sì, come tutti, insomma, sì. Comunque sono contentissimo dell'invito alla festa della radio. E sono contento perché ero stato chiamato come solista, insomma, in acustico, come sempre, e sono portato dietro tutto il collatino Godda, ma ho infilato a forza, diciamo, la band, e sono stati tutti contenti anche di questo, quindi mi presenterò con la band e faremo sentire, insomma, il disco vero e proprio, come l'abbiamo fatto. Il disco che è uscito da poco tempo, quanto tempo? Sì, è uscito, sarà un mese più o meno. Quindi sì, giusto in tempo, in tempo proprio, per sì, spingerselo un pochino, per cominciare a farlo ascoltare. E terzo disco, in questo caso appunto con anche prima, insomma, suonavi accompagnato comunque in sì, varie occasioni da chi ti ha aiutato, questa volta una vera e propria band, un disco bello, te lo anticipavo prima. Grazie. Tutto da ascoltare, non deludi, insomma, da questo punto di vista. Bisogna solamente conoscerti e poi apprezzarti. Allora, come nasce questo disco? Come nasce questo sodalizio con Latino Goddam? Guarda, io pensavo a questa cosa proprio prima e sono convinto che c'è un inizio fisico proprio dell'idea di questo disco. Un anno fa stavo presentando il disco vecchio in un po' di date a Nord Italia. Ombre Lobo Sessions, sì. Lo presentavo in Nord Italia e comprai questo libro di Antonio Bacciocchi su Gil Scott-Heron. Forse certo, qualcuno non lo sa, insomma, è stato un cantautore visionario, tra l'altro, sì, di visionario, molto politicizzato, che usava, certo, appunto la soul music, la musica afroamericana, contesti politicizzati, contesti sociali. E da lì mi è scoccata la scintilla, insomma, diciamo, di fare un disco del genere. Ok, e invece con Latino Goddam da dove vengono e come si sono incontrati con te, allora, al contrario? Appunto, io volevo fare un disco così, siccome poi la soul music, la musica afroamericana, insomma, di quel tipo, è sempre stata una passione mia, però volevo per questo disco, quello che nel gergo musicale una volta si diceva un produttore artistico, no? Qualcuno che sa, che conosce bene il genere, certo, e che ti indirizzi per fare un suono ben preciso sul disco, sì. E quindi chiamai Guido, che io penso che voi conosciate bene, perché se non ricordo male faceva anche una trasmissione a Onda Rossa. Benissimo. E chiamai Guido appunto per darmi una mano con questo disco, e lui mi propose anche questi altri due ragazzi, che tra l'altro sono amici miei di vecchia data, che sono Fabrizio Cristallo e Emiliano, detto il Caciotta, che conoscerete tutti, pure quello. E quindi, onnipresente, come avevano, prezzemolo. Loro avevano in mente di fare un gruppo di quel genere già per conto loro. Ho detto, allora facciamo una cosa tutti insieme, facciamo un disco insieme. Così è andato. È venuto uno splendore, insomma. È un disco, tra l'altro, che appunto, come dici te, se le sonorità sono quelle soul, afro, blues, però c'è anche tanto tanta tradizione italiana, se vuoi, forse insita, perché è impossibile sfuggirci, no? Tanto cantautorame, però detto così cantautorame sembra insomma quasi dispregiativo, invece no, è una tradizione importante, ne abbiamo già parlato credo qui in diretta, certo, proprio con certo. Te nelle occasioni e nei momenti in cui abbiamo avuto di parlare più diffusamente. Certo, quello è un, diciamo, da un certo punto di vista, come dicevi tu, è un retaggio che non riesco a scrollarmi di dosso, penso anche inconsciamente. Da un altro punto di vista invece sono andato a cercare proprio le sonorità di cantautori, come può essere per esempio Lucio Dalla, no? Cioè dei cantautori che hanno sempre strizzato l'occhio alla musica nera, soprattutto nei periodi degli anni 70, e che quindi sono un po', diciamo, i nostri ci cantanti di soul italiani, insomma. Sì. Allora, prima di magari riprendere con un altro paio di chiacchiere, credo che te vuoi che mandiamo scatole vuote, quindi se hai la pazienza di aspettare in diretta oppure al limite di richiamo, intanto mandiamo. No, aspettiamo, ma me la risento io. Ok, dai. Grazie. Lascialo perdere, abita qua. Poi sono dentro con i cani, pezzi infami, sì. Crolla la porta del 7B. Nemmeno il tempo di tirarsi indietro quando un grido rauco sale verso il cielo. Forse gli piace parlare da soli. Non avrai mai niente da tutta questa gente. Cowboy, Monticello e vai. Nemmeno mobili, nemmeno libri e una bambola di pezza sotto gli anfibi. Palazzi senza nome, scatole vuote tra le baracche e il sole. Non importa se la legge è con voi, sempre sull'attenti, quelli come voi, sempre addosso a quelli come noi. In qualunque quartiere è già un abuso di potere. Il santo della repressione portato in processione. Quando passa cambia faccia le persone. No, luci accese nei rioni e cielo nero e graffiti sulle mura del cimitero. Palazzi senza nome, scatole vuote tra le baracche e sole. Se la legge è con voi, sempre sull'attenti, quelli come voi, sempre addosso a quelli come noi. E fuochi la mattina alla stazione di Cortina. E poi quello che senza cuore è tutto vero e cammini sulle ceneri di un grande impero. Palazzi senza nome, andate dite via ma non ci dite dove. Non importa se la legge è con voi, sempre sull'attenti quelli come voi, sempre addosso a quelli come noi. Oh, sempre addosso a quelli come noi. Oh, sempre addosso a quelli come noi. Cattivo, un altro shot di e la vita va. Ed eccoci di nuovo in diretta con Pat. Ci ha fatto fare un bel giro per i quartieri di Roma con Scaldacuote. Sì, almeno per come li vedo io, perché insomma è sempre il punto di vista di qualcuno che li vede da fuori. Io stando in provincia cercavo di dare uno sguardo esterno, diciamo. E come la giravi Roma? Con l'autobus, con la macchina, a piedi, questi sì, quartieri? Poi mi è capitato, la cosa interessante è che mi è capitato nel divenire del disco, perché dovendo fare avanti e indietro tutti i giorni, tutte le settimane per andare a fare prove, poi io non c'ho la macchina, quindi mi dovevo fermare a dormire a Roma, riprendevo il treno la mattina presto, quindi mi capitava mano a mano che scrivevo il disco e che lo provavo di vedere tante cose, la stazione Tiburtina, a vedere la gente che sta accampata con le tende sotto la stazione, o varie umanità sugli autobus, sui treni, insomma, mano a mano che scrivevo il disco e che lo provavamo mi venivano sempre nuove immagini sopra. E quindi è uscita poi questa Scatole Vuote. Invece il disco intero c'ha una sua parte, il titolo che già suggerisce probabilmente no, quello che è un po' il concetto, anche se parlando appunto l'altra volta di Ombre Lobo Session dicevi io non sono partito con un preconcetto particolare nel voler mettere una in fila all'altra le varie musiche che andavo a cantare sopra, però poi è uscita fuori una cosa che era così probabilmente subconscia, che era l'approccio al mondo del lavoro. Invece questa volta diciamo qual è a disco compiuto, oppure comunque su quale tema hai voluto girare intorno, cercare di... No, questa volta forse anche per reazione, non lo so, comunque questa volta è stato esattamente il contrario. Questa volta, prima ancora di cominciare a provare il disco, c'era un progetto ben preciso, delle tematiche ben precise, c'era addirittura un documento che ho ancora salvato sul computer dove c'è una specie di spiegazione estesa di tutte le canzoni e del progetto che avevo in mente io per fare questo disco. Cioè, quindi è stato molto più insomma. Molto sì, è stato molto programmato dal punto di vista tematico, invece paradossalmente poi è stato molto più libero dal punto di vista musicale, tant'è che siamo arrivati in studio con i pezzi chiusi soltanto a metà volutamente per poter improvvisare un po' in studio, per poter insomma chiudere i pezzi in studio di registrazione poco prima di inciderli, insomma. Perfetto. Vi siete divertiti? Parecchio, cioè diciamo non mi sono mai divertito così a fare un disco, perché erano quasi tutti finiti prima di entrare in studio, i precedenti sia miei che degli ultimi. Questo qui invece è stato aperto fino alla fine, è stato divertentissimo. Dicevo, intorno a quale appunto, perché cinema, e se in qualche maniera cinema riassume un po', forse appunto te già lo illustravi prima dicendo girando Roma, sì. Vedevo delle immagini, e quindi è un disco già cinematografico per questo, perché... Sì, cinema, io per quello che diciamo che mi ero preposto io, ci sono almeno tre motivi. Il primo sono proprio i riferimenti cinematografici che se uno l'ascolta attentamente sono disseminati un po' su tutto il disco, a partire dall'inizio, che forse non è riuscito a pieno perché non ci abbiamo perso il tempo che dovevamo, ma l'inizio del disco con la botta iniziale di tutti gli strumenti nella mia testa doveva essere una citazione di Sergio Leone, ovvero lo sparo durante il finire delle cicale, se ti ricordi, in C'era una volta al West. Nella mia testa doveva essere una citazione di quello, e per tutto il disco ci sono citazioni cinematografiche. Poi ci sono anche altri motivi. Io su tante canzoni, sulla stessa Scatole Vuote che abbiamo sentito, su Indagine 167 e su altri pezzi, soprattutto nelle aperture del testo, nelle prime parole del testo, ho cercato invece che andare a descrivere qualche cosa di fissare nella testa un'immagine che fosse cinematografica e poi descrivere quella. Se vai a sentire le canzoni si sente. Mettere un passaggio, diciamo, di in qualche maniera di racconto, di narrazione. Esatto, invece di farla letteraria, di descrivere l'immagine che vedevo io, che avrei girato io se fossi stato regista di Scatole Vuote, per dire. Quindi un doppio lavoro, un doppio impersonare diverse figure, insomma, di interpretative. E la terza è quella più nostrana, che è, siccome il disco parla come al solito sempre di lavoro, di fare i numeri su e giù per la città, di vite precarie. Come tu ben sai, stai a far cinema a Roma, significa stai, insomma, corri su e giù per la città e ti inventi di tutto per sopravvivere. Ok, quindi è proprio letterale questa. Sì, esatto. È la definizione letterale. Ascolta, io c'ho pronta, magari facciamo così, ci sentiamo l'Acon che abbiamo citato, te attendi ancora qualche istante, facciamo i saluti finali e ti mando a dormire perché una cosa te la volevo chiedere prima invece. Prima e dopo questo lavoro ti abbiamo visto comunque in questo periodo girare molto, comunque in ogni caso anche così in giro per l'Italia. Sì, sì, assolutamente. Io sto... Stai suonando, insomma, questo c'è. Sì, sì, io sto sempre su e giù per lo stivale, come si dice, suonando dappertutto, è una cosa che mi piace, è una cosa che faccio volentieri, quindi in tutto l'anno non mi fermo mai, insomma. E leggevamo che appunto ti sei fatto sto viaggetto con la gang, o almeno quello che... Sì, vabbè, quella è quella che io chiamo un'esperienza formativa, quasi. Quando stavo in tour dal vivo sul palco dicevo sempre che era un tirocinio, perché per me 40 anni di esperienza, insomma. Sì, sono stati tre giorni in cui ho imparato come impara uno all'ospedale a fare l'infermiere, capito? Una cosa del genere, quindi ho imparato il suo mestiere dai migliori. Anche se, insomma, ricordiamo che pure te, comunque ormai fra le varie band e le varie esperienze che hai fatto, sono più di una quindicina d'anni, penso. Sì, saranno una quindicina d'anni, ma insomma prima di arrivare al livello di esperienza loro a voi ancora, come si dice. Va bene, dai. Allora ci sentiamo là con e a fra poco. Dai, aspetta. Va bene. Sì, ingabbiatemi, ma no, non scordatevi di me. Anche stanotte vado. Fotografia di una città scattante 10 minuti dopo l'alba. Fuochi da campo accesi, uomini in K-Way, logori. Scooter sfrecciano come libellule verso lavori impossibili. Venditori di pesche e di peroni arrancano stremati verso il proprio alveare. Giovani nulla facenti rigettano quello che resta della notte. Furgoncini edili, barbe sfatte e pesi al centro dello stomaco. Due ore dopo, un po' più al centro, mille teste uguali come i grani di un rosario sulla linea del treno. Entra pure, mettiti là, capisco, ti faremo sapere. Monta sullo scooter e riparti attraversando la città. Oggi abbiamo lacrime e sangue al posto di burro e marmellata, va bene lo stesso? Ho provato a dire alle persone che abbiamo sbagliato strada, ma non vogliono ascoltare, non ci provano nemmeno. Meglio una grande gabbia che un piccolo mondo libero. Abbiamo palazzi vuoti e gente congelata. Abbiamo pizza nel cassonetto sul retro e un esercito di morti di fame. In questo deserto abbiamo un secchio di sabbia nera trafilata al bronzo di Scozia, ma l'acqua la dobbiamo chiedere in ginocchio. E non provare a dirgli che abbiamo sbagliato strada. Gli puoi parlare del tempo, dell'esecutivo che hanno votato che affronta la formazione di un governo in diretta su Canale 5. Gli puoi parlare di un mondo catodico indipendente da quello reale, dove le Barbara D'Urso sono i buoni, gli Antonio Ricci i sovversivi e le patrie galere stanno negli studi di fuori. Ma non gli chiedere di aprire un libro o di pensare prima di parlare. E soprattutto, fratello, non gli chiedere un pezzo di pane quando hai fame o un rifugio se ti senti in trappola. Potremmo pure conviverci, come potremmo andare via, del resto. L'ironia di tutto questo è che forse l'ironia di tutto questo non esiste. E adesso dormici sopra. Buonanotte. Ho perso un occhio, che ero bambino. Da pure un altro, sta lì vicino. Mi serve preferire, non l'avranno mai. La porta solo qua. Eccoci qua, ci sei? Aspetta, aspetta, aspetta, che invece non c'eri. Ecco, adesso ci siamo. Pronto? Pronto, non ci sei? Adesso sì, ci sì, sei. Sì. Adesso ci sei. Eccomi. Sì, no, perché diciamolo, sveliamo la cosa. Noi intanto che vi mandavamo la musica, come spesso succede in diretta, ci facevamo una chiacchierata per conto nostro. Certo. Il disco lo conosciamo, te lo conosci, io me lo sono sentito già parecchie volte, quindi sì, sì. A me il fatto di non star lì, cioè mi pesa un po' il fatto di non farci due chiacchiere, vabbè, così, no? Però è pure vero, appunto, che poi insomma conduciamo tutti una vita di merda, e questo qui è certo. Uno dei temi delle tue liriche, insomma, del tuo modo di impostare. Non perdo mai occasione per ricordarla, e quindi io. Sfruttiamo, dai, la tecnologia che abbiamo, il telefono, per cui per una sera insomma stiamo più tranquilli. Allora, poi magari non mancherà, magari in un momento più di tranquillità, che ci vieni a trovare. Assolutamente. Stiamo parlando proprio di questa Lagon, di come era nata, e insomma, che mi dicevi che praticamente svelavi che è nata così, quasi c'era un testo e poi sì, c'era musicarlo. Un testo, c'era un riff di chitarra, ma abbiamo preferito, non tanto per questioni di tempo quanto per questioni proprio di divertimento in studio, di portare questo riff e questo testo in sala d'incisione e poi lì vedere che cosa succedeva. E è nato tutto col registratore acceso, diciamo, quello che sentite nella traccia, tutte le varie evoluzioni del giro, insomma, sono avvenute spontaneamente in sala d'incisione, insomma. Un gran bel pezzo, uno di quelli che spaccano, che comunque se girano in automatico della radio o comunque lo mandano in onda ai vari redattori, noi siamo molto contenti. Questo è pure un invito velato, così, affinché venga spinto questo, ma come tutto il disco, però in particolare questo, che è una cosa che spacca anche per il testo, che è veramente, come si dice, va dritto al punto. Cosa stavamo dicendo? Insomma, di Onda Rossa Festa, che insomma hai avuto modo pure di sentirti con le altre band che suoneranno. Sì, tra l'altro, sì. Appunto, stai parlando dei Wendy. Lì, se riusciamo, insomma, perché poi magari sono impicciati, però contiamo il prossimo mercoledì di sentirli. Vabbè, che altro dire, insomma, se vuoi aggiungere qualcosa, se no che diciamo, ci eravamo detti qualcosa, io non ricordo più, fuori vabbè, in generale intanto sono contento che mi avete chiamato, così ci sentiamo e facciamo sentire a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici questo disco, e poi vedo appuntamento al 14 a tutti quanti, e se volete prima del 14 questo sabato a Inferno Store facciamo un quello che si chiama un listening party, c'è l'altra radio, c'è Radio Sonar che fa un'intervista in diretta, mettiamo un po' di dischi, beviamo due birre e sentiamo il disco, insomma, per chi volesse. Ottimo. E invece il titolo della Sporca Cinquina, punk rock contro il razzismo. Ah, ci stanno molti, ecco, vedi, poi parlando mi vengono le cose, ci stanno anche molti Clash. Molto, molto, molto, ma è molto, molto inglese l'ispirazione che noi volevamo, più che il soul americano. Noi pensavamo ai Clash, ai Rettins, a Paul Weller, a Billy Bragg, noi pensavamo a quella roba lì. Forse è il soul americano che passa per la Gran Bretagna e poi si diventa meno pesante quando passa per la Gran Bretagna, perché gli inglesi sono così, semplificano tutto, quindi viene più, più preciso e meno pompato, e quindi è più godibile dal punto di vista sonoro. Benissimo. Allora, dicevo, ti piace il titolo, cioè immedesimi col titolo del quinto concerto che abbiamo, punk rock contro il razzismo, insomma? Assolutamente, ci mancherebbe, assolutamente. Va bene, allora dai, quella Sporca Cinquina, punk rock contro il razzismo, il 14 a Strike inizieremo, vabbè, tanto la festa è lunga, venite prima, poi a una certa inizieranno i concerti, insomma, e di lì avete già deciso una scaletta o ancora, insomma, è tutta da... No, ancora non ho saputo niente, ma comunque diciamo siamo tutti i gruppi che ci conosciamo l'un l'altro da anni, quindi quello sarà l'ultimo dei problemi. E ognuno ha il piacere di ascoltare gli altri. Assolutamente. Va bene, allora dai, ci vediamo a Strike. Grazie. Grazie a te e alla prossima. Grazie a tutta la radio, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. bella come un gatto nero, bella come il cielo, ma parla da schifo ed ha un dente di meno. E da cinema. Questa acqua scura col tempo ci ucciderà. E questa. Ascoltiamo un'altra traccia che si chiama Indagine 167. Mentre questo è il vecchio disco. Tornerò a casa quando sa. Di Pat, solista Umbrello Bear Studio. Solo questo. Rob Session. Ultimo giro per noi. Ed eccola qua, quindi Indagine 167 da cinema, Pat e Collatino Goddam. E qui ci stanno tutti i Clash del mondo. Quartiere deserto, c'è la polizia, ti portano via. E non è la prima e l'ultima volta. Tua madre manco piange più, no, no, no. Sa quello che fai, sa pure chi sei. Ma se fosse stato un nobile, un americano, ti avrebbero portato in un palmo di mano degli acchi. Per sempre vigliacchi. E ammazzeranno il porco, tanto era già morto. Il giorno che è venuto a questo mondo blando. E adesso non pensiamoci più. Brava gente, era ora ci pensare più. Generazioni e c'è un vecchio buco